Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar Giannino, alle 8 e 19 minuti, buongiorno e ben ritrovato. Siamo due malaticci. Molto malaticci. Io mi scuso perché gli ascoltatori capiranno dalla voce come sono infernalmente messo. Mi scuso anche perché ti contagio tra un po'. Ti contagio. staremo tutti a casa con un bel brodino caldo per 5 giorni. No, avremo un decreto di quelli che il Presidente del Consiglio oramai ogni settimana annuncia. Magari perché bisogna lottare il giornalismo con giornalisti della voce pronta, ci darà 500 euro anche a noi, come ha annunciato ieri. Va bene, ma noi li prendiamo, Andiamo. Li combatteremo a libri in testa. Mandando i diciottenni a spese del governo del contribuente a cinema. Combatteremo l'ISIS. Questo è il decreto. Sì, io sono molto perplesso, soprattutto quando, come ho letto in rassegna stampa, Maria Teresa Meli, che non è certo una critica del presidente del Consiglio di Renzi, scrive in maniera nero su bianco sul Corriere della Sera che questa scelta dei 500 euro nasce dal fatto che Renzi è preoccupato dai sondaggi che danno al Movimento 5 Stelle in vantaggio, comunque in crescita, e quindi vuole accaparrarsi un po' la captatio benevolenza dei giovani, dei diciottenni. Si chiamano Achille Lauro. Siccome il cammino è lungo contro il terrorismo, cari italiani, due paia di scarpe a testa. Ecco, questi sono i generi di decreti. Ma no, ma guarda che la cosa dei 500 euro ai diciottenni mi ha colpito. È una cosa da Achille Lauro. Cioè, che poi, ripeto, va bene investire in cultura. Ma dai, su, ma non è investire in cultura 500 euro ai diciottenni, è una gratifica, ma è una mancetta di Stato. Oltretutto, cari ascoltatori, già manca il testo di un decreto legge annunciato 10 giorni fa, 1.2 miliardi di euro con 12 interventi. L'ha chiamato lui stesso il decreto Happy Days, quello per la terra dei fuochi, per Bagnoli, per il futuro di Expo, eccetera. Non l'abbiamo mai visto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 1.2 miliardi, che legge di stabilità non c'erano. Ne arriva uno da 2.5 miliardi, chissà come finanziato, annunciato anche questo. Ditecelo, cari ascoltatori, 800 24 00 24, che ne pensate di questa sfida? Vabbè, è tendenziosa la domanda. Ma i metodi sono quelli. Che ne pensate di questa sfida culturale lanciata da Renzi? Pensa così, fosse in maniera stato un po'... il signor Berlusconi. In maniera un po' più asettica. Berlusconi diceva: vi do 500 euro per farvi l'abbonamento alle mie televisioni. Forse era più esplicito, comunque non lo ha fatto. Qui invece siamo, i giornali titolano, compreso il nostro Sole 24 Ore, io sono esplicito: slitta per coprire il finanziamento di questi nuovi provvedimenti la diminuzione dell'IRES al 2017. È sempre stata al 2017, ma cerchiamo di farlo bene il nostro mestiere. Quindi è deficit aggiuntivo. Insomma, non ti è piaciuto il Renzi che annuncia questo? No, io voglio capire come è coperto euro. Tutto qui. E questo infatti si vedrà. Per esempio, l'estensione degli 80 euro alle forze dell'ordine. Sentiamolo, Renzi. L'estensione del bonus 80 euro sarà per tutte le donne e gli uomini che lavorano con le forze dell'ordine, a cominciare da chi sta sulla strada. Ecco, anche qui c'è da dire, 80 euro, quello è il bonus, esteso a tutte le forze dell'ordine. Cosa vuol dire a cominciare? Qualcuno addirittura fa capire che ci sono dei profili di incostituzionalità se dagli 80 euro solo a chi lavora, agli operativi, no, agli di pattuglia, e non agli amministrativi, e non a tutti. Perché lui l'ha detto ieri dopo aver pronunciato una frase dicendo: inviterò i comandanti delle forze dell'ordine a mandare la gente in strada e non a stare negli uffici. Quindi, c'è il progetto. Detto di questo, di se lo fa come l'ha detto, hai ragione tu, e chi obietta. Sì, ma chiaramente non potrà farlo così, lo darà a tutti. Comunque, i soldi alle forze dell'ordine, bene. L'unica cosa che mi interessa è capire questo deficit aggiuntivo come è coperto, chi paga, questa è la solita domanda. Il bonus 500 euro ai diciottenni è pura cosa elettorale, invece quello non mi dispiace, con la cultura non c'entra niente. Ma no, anche perché 500 euro, poi cosa tu l'hai capita, cioè daranno una tessera per comprarsi dei libri, sì, andare al cinema. In teoria è l'equivalente di quello che fanno per gli docenti, no? Sì, 500 euro di 500 euro della buona scuola, la card della cultura. Quindi andremo, li mandiamo al cinema pagati dal governo, cioè dai contribuenti. O speriamo gli faremo comprare un libro. Speriamo gli faremo comprare un libro. Non che il cinema non sia cultura, per carità, però la misura appunto ha questo scopo elettorale. Non ci giriamo intorno, chiunque lo faccia direi che è elettorale. Mi scrivono: Giannino, sei uno da Oscar, scrivono qui nel nostro 349-238-6666. Beh, può essere che dicano che sia un po' ecceda coi toni un po' da spettacolo, però guardate no, era assolutamente girata, ed è assolutamente girata in senso positivo, insomma. Assolutamente no, sono cose serissime, e diteci cosa ne pensate. Tra l'altro noi avremo tra poco il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, invece, per capire sia le forze dell'ordine, sia a questo punto, beh, non lo so, lo scenario internazionale. A te inquieta o stiamo esagerando su questa cosa della guerra mondiale che sta arrivando? Guerra mondiale no, però i quattro fatti di ieri danno l'idea di un occidente senza senso. Cioè Putin, è amaro dirlo per me che sono un critico, però giganteggia al confronto, perché se un paese nato butta giù un aereo dicendo per un chilometro ha barcato il confine, un chilometro significa 4 secondi, chilometro e 10 avvertimenti, cioè, ecco, però 10 avvertimenti per un chilometro che si varca in 4 secondi a quella città, fa ridere. Primo, secondo, i piloti etati vengono uccisi dai turcomanni, pagati dai turchi oltre frontiera contro i curdi, altra follia, non contro l'ISIS. Terzo, l'elicottero dei russi viene tirato giù con un missile che sono gli americani a dare all'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita li dà al Free Syrian Army, che oramai è una componente salafita al-qaedista. Allora, che l'Occidente faccia queste follie, dall'idea che noi abbiamo le idee confuse. Putin ha un'idea chiara e mi spiace, Putin guadagna terreno. Ha un'idea chiara, però in questo momento non sta, è la nostra, sta scontando, cioè le 224 vittime sul Sinai, lo ricordiamo, l'aereo russo, ora i piloti. Insomma, è un Putin che mostrando i muscoli, è un Putin che sta subendo come sta subendo in questo colpi, colpi. Però ha una strategia chiara: l'Occidente si fa la guerra più diviso tra le diverse parti in lotta, e perché ognuno ha un interesse diverso, che contro Daesh, ISIS, si dica quello che vuole, ed è una roba da perdere veramente. Io sono molto preoccupato per capire, di fronte alla notizia del numero crescente di giorno in giorno di espulsi che annunciamo dall'Italia, per capire, no, questi espulsi che di dove cui vanno? Apprendiamo quando ci sono queste dove accelerazioni, vanno? Dove vanno e che cosa fanno? Rischiamo vogliamo chiedere al nostro ospite, che è Domenico Manzione, sottosegretario agli interni. Buongiorno Manzione, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ecco, effettivamente sono 60 gli espulsi finora, ieri ancora uno abbiamo letto, tunisino espulso a Vimercate, progettava addirittura il martirio. Che fine fanno, ci chiedevamo io, Oscar Giannino, qui, questi espulsi? Perché leggere espulsi, vabbè, vanno nei loro paesi, ma sono liberi di circolare, vanno nelle carceri? Beh, sì, nei loro paesi ovviamente sono assoggettati alla disciplina che i loro paesi prevedono per i comportamenti che eventualmente tengano lì o abbiano tenuto qui. Quindi in alcuni casi sono liberi di circolare nei loro paesi se non ci sono misure che possono adottare nei loro paesi. Ma questo non inquieta un pochettino? Cioè se uno progettava il martirio qui e viene rispedito in Tunisia e mettiamo lì è libero, può progettarlo anche da lì il martirio? Sì, non c'è dubbio, però diventa difficile imporre agli stati che si riprendono i propri cittadini un comportamento nei confronti di soggetti che predicano la violenza. Il problema è se hanno commesso, a parte la mera manifestazione di pensiero, che quindi consente di applicare misure che sono sostanzialmente preventive, hanno anche tenuto condotte che in qualche maniera siano perseguibili nel nostro ordinamento, allora invece dell'espulsione procediamo per via giudiziaria direttamente noi. All'arresto, sì, in certo. Caso contrario, nel caso che sia solo appunto una manifestazione di pensiero, sia pure a nostro modo di vedere pericolosa, perché evidentemente questo è il presupposto per poterli riavviare nei paesi di origine, a quel punto più di questo lo Stato italiano evidentemente non può fare. Come mai secondo lei in questi anni, voglio dire, di fronte a un problema che non scopriamo oggi si accelera per via della gravità degli attacchi portati, però come mai non è stato immaginato o provato, magari sì e non lo sappiamo, in quel caso questa è la mia domanda, di mettere in piedi dei protocolli in particolare con quei paesi, penso alla Tunisia, al Marocco, che hanno la guardia alta perché a propria volta sono vittime di attentati, per protocolli congiunti Italia con loro nel caso in cui ci siano espulsioni come quelle di cui stiamo parlando parlando, perché automaticamente scatti anche da parte loro un livello di valutazione di limitazione della libertà. Cioè, strumenti di questo tipo non sono comunque necessari. Non bisogna immaginare che la frontiera del diritto, lo capisco, delle garanzie processuali, di fronte a questo, visto che quei paesi sono sensibili come noi, possa evolvere in strumenti tali da farci pensare che se poi li espelliamo non ce li troviamo qualche mese dopo di nuovo a casa. Ma strumenti di questo genere in realtà esistono già, quantomeno sotto forma di cooperazione, non solo tra le forze di polizia ma tra le forze di intelligence, perché è evidente che nel momento in cui rimandiamo nel paese di origine una persona che nel nostro paese ha predicato, diciamo così, eventualmente la guerra santa, la violenza o comunque forme violente di sopraffazione, nel momento in cui il paese lo riprende, evidentemente è ben consapevole del soggetto che si sta riprendendo, quindi ha tutte le possibilità, e in genere lo fa, devo essere sincero, di attivare tutti i suoi meccanismi di controllo per poter verificare come si sviluppa la situazione. Gli 80 euro alle forze dell'ordine, sottosegretario Manzione, è soddisfatto come rappresentante del Ministero dell'Interno, e come andranno a tutti? Perché Renzi dice forse a quelli che saranno prima operativi, invece andranno a tutti, no? Se no è una forma discriminatoria non darle a tutti, immagino. Guardi, onestamente, per come si è capito fino ad ora, gli 80 euro dovrebbero andare a tutti, quindi, altrimenti ha ragione lei, finirebbero per diventare una sorta di forma discriminatoria a seconda dell'impegno per il quale viene utilizzato il singolo appartenente alla forza dell'ordine. La misura ancora non è operativa perché va inserita nella legge di stabilità, e quindi c'è tutto il programma da fare con riferimento a quella doppia, perché come ha visto il Presidente del Consiglio ci ha tenuto a che una parte delle risorse, che tra l'altro dovrebbero derivare da una procrastinazione della riduzione dell'IRES, vadano da una parte, diciamo così, alla sottosegretario, mi scusi se devo fare il mio mestiere, no, non ce la ammannisca anche lei. La diminuzione dell'IRES alle imprese, come sa, perché io immagino che lei le abbia viste le tabelle annesse alla legge di stabilità, scattava, come continuerà a scattare, dal 2017. Quindi la copertura non c'è ancora, ce la direte, il governo procederà. Non ripetete questa roba, che la copertura è fatta diluendo, spostando di un anno la diminuzione dell'IRES alle imprese, perché la diminuzione dell'IRES alle imprese è sempre stata prevista per il 2017. Well, mi scusi se faccio il mio mestiere, però. Ma lei fa benissimo a fare il suo mestiere. Io le ripeto semplicemente quella che è l'indicazione massima che è arrivata fino a questo momento. Non volevo assolutamente convincere nessuno, no. Tant'è che le dicevo che la misura è allo studio. Bisognerà trovare un'altra copertura. Ho capito la sua prudenza, per così dire. No, per carità, ci mancherebbe altro. Le dico, la misura appunto è allo studio. Come ha visto, per ora c'è stata solo una prima presentazione, esatto, che ha fatto direttamente il Presidente del Consiglio, quindi io mi limito a ridirle quello che il Presidente del Consiglio in realtà ha già detto. Non sono in grado, no, ma è chiaro che andrà studiata un'altra copertura, certo. Senta, sottosegretario, ci ha anche colpito il titolo ieri del Messaggero, che veniva messo con tale certezza: due dei kamikaze arrivati coi barconi, sì, arrivati in Grecia per la verità e poi trasferiti in Francia evidentemente, sì. Come possiamo essere certi che questo non accada? Ma guardi, in tutta sincerità, ora questo mi sembra che sia un'evidenza, insomma. Allora, fare questo abbinamento fra immigrazione e terrorismo, francamente, mi sembra fuori luogo. Tutti gli attentati che ci sono stati fino a questo momento sono attentati che hanno avuto le loro basi logistiche, le presenze più significative e verosimilmente anche l'approvvigionamento del materiale che è stato utilizzato. Non penso tanto all'esplosivo, perché come ha potuto vedere l'esplosivo è un di confezione, sì, di tipo rudimentale, sostanzialmente è un precipitato di ammonio che si chiama TAP e si può fabbricare sostanzialmente utilizzando i negozi che abbiamo a disposizione tutti sotto casa, perché insomma frac, ossigenata, sì, e acetone e un po' di zolfo, insomma non è difficile procurarsi il materiale. Più preoccupante mi sembra invece l'utilizzo abbastanza spregiudicato dei fucili mitragliatori AK, in effetti, che evidentemente hanno altre strade per le quali arrivano in Europa. Allora, anche ammesso che sia passato qualcuno dalla Grecia, cosa che non si può escludere, perché come lei sa il problema del controllo e dei documenti falsi è un problema oramai risalente non solo in Grecia ma anche in altri paesi europei, che si è già sviluppato, sono già stati scoperti in altri paesi europei, addirittura diciamo così, anche quantitativi consistenti di documenti falsi, quindi non si può escludere che una singola persona possa essere passata, diciamo così, con dei documenti falsi, ma come passerebbe, però mi consenta, attraverso le frontiere regolari. Quindi lei dice non per questo bisogna fermare il flusso. Diventa un po' difficile, ma guardi, d'altra parte, se andiamo a vedere, nemmeno la Francia, dopo tutti gli attentati che ci sono stati, ha chiuso le frontiere, ha sospeso Schengen. È stato trovato un accordo in ragione del quale si fanno i controlli, ora si fanno anche per i cittadini europei, cioè questo è bene averlo presente. Però invece come dobbiamo stare tranquilli in vista del giubileo? Cioè l'idea di sospendere il giubileo davvero non è mai venuta in mente a nessuno all'interno delle istituzioni, di chiedere la sospensione? Guardi, onestamente io non credo, almeno a me personalmente non è venuta in mente, non ne ho mai sentito parlare di questa idea. Capisco che il problema c'è, perché gli attentati non hanno colpito dei luoghi simboli in realtà, ma hanno colpito semplicemente dei luoghi di aggregazione. Però ragionando su questa china, il rischio veramente terribile è che alla fine non facciamo più niente, cioè non solo il giubileo, ma non la partita di pallone, non il concerto, non qualsiasi tipo di attività che noi siamo abituati a svolgere nella quotidianità, che consente una forte aggregazione di persone. Su questo io sono d'accordo. Francamente, ecco, diventa difficile, ecco, mettersi su questa strada, perché altrimenti veramente significa chiudersi in casa e non fare più niente. Certo. Su questo sono d'accordo, nel senso che mi sembra assolutamente ragionevole. Noi la ringraziamo, sottosegretario, per essere stato con noi. Grazie davvero a Domenico Manzione, sottosegretario all'interno. Caro Oscar, c'è Gianni da Torino. Gianni ci chiama da Torino. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo Gianni e poi Gianni no. Gianni, diciamo... no. No, Gianni, scusa, la batto taccia. Gianni c'è, quindi Gianni sì. Gianni sì. Buongiorno. Allora, io volevo dire questo. Al di là che, vabbè, voi giustamente dovete fare la trasmissione, siete bravi e quindi parlate di questo decreto annunciato, poi bisognerà vedere i dettagli per poter valutare e criticare. Io penso che l'idea di, oltre a mostrare i muscoli, anche come dire, cercare di sviluppare il cervello, mi sembra di principio una buona idea. Allora, io penso che questi 500 euro che verranno dati eventualmente a questi ragazzi, e come credo, non si deve dire, per andare al cinema, ma molto probabilmente serviranno, oltre che andare al cinema, spero, a comprare libri, ad andare a teatro, ad ascoltare delle relazioni, eccetera, eccetera. Beh, tutto sommato, pagando le tasse, forse penso che siano spesi meglio di tanti altri soldi che forse oggi buttiamo. Dice. Quindi su questo pregherei, come dire, mi piacerebbe sentirvi un pochino più... propositivi, ottimisti. Gianni, scusa, ma con i buchi che abbiamo nel welfare attuale, secondo te, con le asimmetrie di giustizia, di equità che abbiamo nel welfare attuale, con quelli che sotto, che sono incapienti, che non hanno avuto gli 80 euro, caro Giannino, no, ma io faccio il mio mestiere, sai, il mio mestiere è, invece di parlare a favore di chi annuncia senza darci testi, ripeto, manca ancora il decreto di 10 giorni fa, non è scritto ed è deficit aggiuntivo, il mio mestiere è porre dubbi, il mio mestiere non è parlare bene a prescindere. Poi, secondo te, carità, 500 euro ai ragazzini sono una cosa positiva? Benissimo. Secondo me, nella gerarchia dei numeri dei problemi italiani, c'è gente che ai quali non diamo nessuna risposta, continueremo a non darla perché diamo un segnale, signora, di questo tipo. Tutto qua. Mi scusi, lei fa benissimo, faccio mestiere, l'apprezzo anche. Il tema però è che le parole sono importanti, le vedo molto meglio di me. Ecco, allora dire, per mandarli al cinema, dire diamo 500 euro ai ragazzini è un modo, a mio avviso, me lo dico con molta stima, scorretto, per dire le cose. Certo, è un modo per rimarcare l'opinione che gli attribuiamo un esplicito intento elettorale, come fanno pezzi di stampa italiana, e il nostro mestiere è mettere il dubbio nella testa della gente, lo so. Comunque Gianni, dobbiamo andare in pubblicità, la ringraziamo per questo suo contributo, anche perché dopo la pubblicità parleremo anche di un'altra vicenda, oltre alle vostre telefonate, e cioè in Vaticano stanno processando 5 persone, tra cui 2 giornalisti, perché hanno scritto 2 libri. Avremo ospite Gianluigi Nuzzi, che ha scritto Via Cruci, su uno di questi e oggi libri. È Santa Caterina d'Alessandria, un'altra martire. Mi sa che i martiri. Si festeggiano, non bisogna crearli. No, con questo processo invece li stanno creando. Allora, tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Più libri, più liberi. Dal 4 all'8 dicembre al Palazzo dei Congressi dell'Eur, Roma. siamo qui, caro Oscar. Vorremmo dare la parola a Ermelindo da Avellino. Buongiorno Ermelindo. Buongiorno, una precisazione e un suggerimento. Sì. Circa Giannino, che ha costato Renzi ad Achille Lauro, uno, i soldi erano del comandante Lauro. Bravo. I contribuenti. Bravo. Secondo punto, il comandante Lauro non è stato mai implicato né lui né la sua famiglia in bancarotte fraudolente. Terzo punto, se ancora oggi andate a Napoli, potete andare a Caprio, ad Ischia andate con una flotta che si chiama Lauro. Invece un consiglio, Lauro faceva bene le campagne elettorali perché dava una scarpa a destra, quella a sinistra, prima del voto. E dopo. E dopo dava. Allora dite a Renzi di stampare una moneta da 80 euro, la strappa a metà e dà la metà prima dell'elezione e una dopo. Grazie Ermelindo, grazie auguri anche lei Ermelindo. Insomma, lo scenario, lo spaccato dell'Italia che lei ci prefigura non è da tanti auguri. No, però grazie, perché alcuni particolari che ha ricordato sono esattamente quelli storici. Grazie anche perché con l'ironia si può raccontare tutto, fare commenti salaci sia pro sia per contro. La lotta al terrorismo bisogna guardare lontano e il governo vi regala gli occhiali. Questa è stata la linea annunciata. Dopo facciamo arrabbiare tutti. Però dicevamo, c'è, caro Oscar, un processo in Vaticano, si è aperto ieri. Tra l'altro la giustizia italiana lì con udienze doppie, pare che prima della fine dell'inizio del giubileo finisca tutto. Beh, ma quando si hanno tesi pregiudiziali, sai, i processi sono rapidi. sono rapidi, quindi entro l'8 di dicembre dovrebbe essere finito tutto. Si ride, forse ride un po' meno uno dei due imputati, dei due giornalisti imputati, è Gianluigi Nuzzi, che ha scritto Via Crucis per Chiare Lettere. Buongiorno Gianluigi, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, solidarietà e abbraccio. Solidarietà, no, perché effettivamente è la prima volta che si vede due giornalisti insieme ad altri imputati per aver scritto un libro, di fatto, no Gianluigi? Questa è la... qualche secolo fa anche altri, tipo Galileo, sì, per aver scritto delle cose. Qualche secolo fa. Comunque Nuzzi, che cosa siete imputati esattamente? Tu e Emiliano Fittipaldi, lo ricordiamo. Siamo imputati di un reato che nel mondo dell'informazione è una medaglia. Cioè siamo imputati di concorso nella diffusione di notizie riservate, e questa è la prima parte del reato. La seconda parte del reato è notizie riservate su interessi fondamentali dello Stato. E questo è un aspetto dello Stato di Città del Vaticano, è un aspetto che sinceramente trovo, insomma, abbastanza, diciamo, non voglio essere sarcastico, ma ritengo abbastanza opinabile, perché mettere l'elenco degli inquilini delle case a 500 metri quadrati a zero canone, o dire come i soldi che dovevano andare per i poveri andavano a sanare i debiti della comunità, non credo che siano interessi fondamentali dello Stato, ma siano vergogne e privilegi. Quali sarebbero, infatti, ma hai capito, sono questi i documenti che sono entrati tra i documenti del tuo libro, contestati come documenti che mettono a repentaglio la sicurezza dello Stato? Sì. Qualcosa di più? Non se ne fa. No, ma c'è questo. Per fortuna tutti possiamo farci un'idea, perché basta che guardiamo quello che c'è nel libro e senza parlare, andiamo in libreria, non lo compriamo. Guardiamo cosa c'è, no, perché non voglio sembrare che guardate cosa c'è dentro e ditemi se c'è una parola contro la fede, che non c'è, ma anche quello è un altro discorso, ma se c'è una cosa che riguarda la sicurezza di uno Stato. Io, ma vi pare se io metto, come dire, a repentaglio la situazione? Cioè, a parte che non ne ho gli strumenti conoscitivi, ma nemmeno di volontà, perché non è questo il mio lavoro è raccontare magagne, raccontare malaffare, fare il giornalista come ho fatto da 20 anni e che continuerò a farlo anche sul Vaticano, ovviamente. Effettivamente, a meno che non mi traducano in qualche segreta, però insomma, Castel Sant'Angelo finirai nel segreto. E così dovranno spendere altri soldi, perché adesso è chiuso, quindi riaprire quello, organizzare delle celle, si butteranno via altri. No, ovviamente Gianluigi, insieme a te Emiliano Fittipaldi, sono processati i cosiddetti corvi. Facciamo la domanda che non si dovrebbe mai fare a un giornalista, ma insomma, le cosiddette fonti, no? Che sono assolutamente riservate, e che perché qualcuno i documenti ovviamente te li ha passati all'interno del Vaticano. Ecco, riguardo ai corvi, cosa possiamo dire? Volano ancora? Corvi, perché i corvi sono quelli che a Palermo rispondevano a notizie anonime, belline e quant'altro. E i corvi è dispregiativo, l'hanno inventato in Vaticano per sputtanare delle persone che qualunque cosa hanno fatto, al massimo hanno dato delle notizie anche loro su su delle cose che non funzionavano, notizie che poi su fatti che loro combattevano, tra l'altro, perché ricordiamo che questi tre signori, due uomini, un monsignore, una signora e l'ex segretario del monsignore Nicola Maio, lavoravano in questa commissione d'inchiesta scelta dal Papa per fare pulizia. Cioè, quindi, e per questo dico che è un processo kafkiano, perché di processi sui reati denunciati dal mio libro non mi sembra che ce ne siano. E parlo di reati, di reati si tratta. Perché quando scoprono che ci sono ammanchi nei magazzini del governatorato per 1.600.000 euro, cioè si sono fregati le robe nei magazzini di tutti i negozi, dei musei, insomma, lì, per 1.600.000 euro, non mi sembra che avevano fatto un processo. Quello si chiama furto, però. Non diffondere notizie su queste storie, cioè è il problema del dito della luna, dello specchio che ripeto malaffare, allora rompiamo lo specchio e malaffare. Sì, in Vaticano invece di occuparsi di quello che voi, anche tu denunci nel tuo libro, si occupano di perseguire coloro che lo fanno sapere, ecco. Sì, io tutto ciò lo trovo abbastanza, come dire, più che altro antistorico, cioè nel senso che noi siamo nell'era di internet, nell'era dell'informazione globale, l'ete non perdona. E quant'altro, un libro fa storia, già questo fatto è indicativo per chi ama i mezzi di comunicazione, che un libro faccia storia, no? Quando siamo nell'epoca della comunicazione globale. Ma poi si fa questo grande cinema in un'aula di giustizia, invitando dei giornalisti a essere processati. Noi rischiamo 8 anni di carcere, lo faremo, non li faremo, ci condanneranno. Io spero di essere non assolto ma prosciolto, perché ho fatto il mio mestiere. Ma al netto di tutto, questa è posso farti una domanda? La mia impressione, però se ne sei occupato più da vicino tu, è che un processo di questo tipo, su una cosa, vicenda di questo tipo, all'attenzione degli occhi del mondo, non può avvenire se non è il Papa in persona a dire procedete. Questa è la mia impressione. Voglio sapere la tua, e nel caso in cui, come me, pensassi, sì, non può avvenire se il Papa non dice ai promotori di giustizia procedete, se non sei stupito di fronte al fatto che Papa Francesco dica sì, facciamo un processo di questo tipo. Ma sono stupito a metà, perché lui a quell'Angelus ha detto una cosa che mi ha lasciato esterrefatto, ha detto, avete saputo di queste notizie, su questi documenti, documenti sono rubati. Esatto, ha detto questa allora parola. Io pensavo, questa parola è stata per noi, ma ci ha lasciato senza voce. E allora io poi sono detto, vabbè, quindi abbiamo rubato dei documenti, a parte che non è vero. Ma poi immaginavo che proprio per quella catena di comando che tu dicevi, sì, andassero a contestarci il furto, la rapina e quant'altro. Esatto. Invece non c'è contestato né il furto né la rapina, ma non è contestato non solo a noi, a nessuno. Quindi il furto non c'è, quindi nessuno ha rubato nulla. Ma perché? Perché quelle persone avevano la disponibilità, quelle persone accusate di averci dato i documenti avevano la disponibilità di quei documenti, perché erano i loro strumenti di lavoro. Allora cosa vuol dire? Vuol dire, forse, domanda maliziosa, giornalista impertinente, questa, forse hanno informato, hanno dato dei dati, delle notizie fatte al Papa o parziali, perché se lui dice quelli sono documenti rubati, quando rubati non sono e nessuno ce lo contesta, perché lo dice? Qualcuno forse l'ha informato, ma voi appunto rischiate 8 anni. Mi ricordo di Paolo Gabrielli. Sì, sì, sì. Mi ricordo di Paolo, certo, del maggiordomo di Ratzinger, che io, come dire, incontravo con una certa regolarità. E lui, anche lui mi diceva che a volte nell'appartamento, insomma, a casa del Papa, dove lui di fatto stava 12 ore al giorno, avevano tutti la sensazione a volte che Ratzinger non fosse informato con completezza dei fatti. Cioè, non immaginiamoci che lì tutto sa tutto di no, no, certo. Chiaro, tu temi o ipotizzi che possa essere successo la stessa cosa con Francesco. Rischi 8 anni, rischiate 8 anni, ma potevate non presentarvi intanto? E poi se ci fosse una condanna, che succede? No, non è che vogliamo solo spiegare tecnicamente, speriamo. Io andrò a casa di Oscar Giannino, mi farò difendere da lui, e questo mi assicura. No, adesso tecnicamente, effettivamente, cioè non è che nel momento in cui ci dovesse essere una condanna anche a un mese o a un giorno venite portati nelle carceri del Vaticano, immagino. Noi siamo cittadini italiani, esatto, che siamo assistiti da tutta una come dire, un dei costituzionali di diritto, sulla legge sulla stampa, sulla tutela delle fonti professionali, sulla libertà di espressione, per cui quando loro andranno a fare il passo successivo, che è quello di chiedere l'estradizione per via rogatoriale, se loro chiederanno certo. all'Italia, li abbiamo condannati, posso che ci condanni. Sentenza definitiva, mettiamo sentenza definitiva di condanna, pensiamo all'ipotesi peggiore. Allora lì in quel caso diranno, vogliamo l'estradizione di Nuzio e Fittipaldi per accompagnarli in carcere perché hanno compiuto questi reati. Io, il buon senso di tutti, anche di chi ci ascolta evidentemente, spingo a pensare che mai faranno un gesto di questo tipo. Sì. Ma allora qual è il messaggio che deve passare da questo processo, fregandosene della reale, cioè vuol dire il processo allora diventa non faranno mai questo, vuol dire che il processo ha un'altra intenzione. Ma certo, è solo chiunque dentro abbia un qualunque documento deve tenerselo lì, ma dentro è un processo per quelli che stanno lì. È per questo che c'è un attentato all'informazione, esatto. Perché loro pensano di intimorire e di bloccare le informazioni. Esatto. Vabbè, purtroppo sbagliano, perché il malessere lì è presente ed è chiaro che le persone... come dire, non è che... Perché devono essere votate al silenzio di fronte al malessere, alle malefatte che ci sono ancora lì? Ma in tutto il mondo funziona diversamente, solo nelle dittature non funziona così. Ed è un peccato, ed è inevitabile che un domani ci saranno altre persone che diranno altre cose ai Nuzzi di certo. Cioè, non, l'informazione tu non è un non la puoi fermare, è come l'aria, non la puoi mettere, chiaro, non la puoi imbrigliare. Allora noi ringraziamo Gianluigi Nuzzi, vogliamo ricordare autore di Via Crucis, lo potete trovare ovviamente nelle librerie per Chiare Lettere. Grazie Gianluigi per essere stato con noi qui. Caro Oscar, siamo a un minuto, quindi mi dispiace per tutti gli ascoltatori, c'è spazio forse Maria Vittoria, ma se è veramente breve, telegrafica Maria Vittoria, gentilmente, sì? Dica. Sì, telegrafica, per questi ulteriori 80 euro, sì. Volevo dire che non ci sono problemi, perché li prenderanno dai pensionati come hanno fatto in occasione dell'altra elargizione, perché noi dal 2011 paghiamo un contributo di solidarietà che per il mio caso vale 400 euro al mese. E ce li prenderanno, vabbè, pochi. Ma per le forze dell'ordine, insomma. Per la lotta al terrorismo bisogna sentire bene, chiunque abbia problemi di tipi audio, il governo regala un apparato antiterrorismo. Basta Cardinal Giannino, fermati. No, però, ci arriveremo. Ci ritroviamo domani mattina. Benissimo, caro ascoltatore, continuate su Radio 24, Mix 24 con Giovanni Minoli e la sua squadra fantastica, con Seiki Buttafuoco, continuate su Radio 24. Forza Alino, forza Oscar, per un nuovo miracolo radiofonico.